Una maruzzella con un filo argento t'ha scritto sin in gappo mure fronte, ma strisce l'una carica e brillante, gianta per l'astre vedeva seta. Stanotte oi bella si fa l'aria siente, migliare voce non fantastica. Non son l'albero, non è così l'ego, non è stumare te parla così, non è a caracciolo, né staria tenera, non è stucciolo in pasta, non son ghi. Stanotte Napoli, tu chiamo a te, sietate oi bella, tu dici Napoli, hai voglia a te. Ma i giatte saccio non tasciata niente, manco ricamo blu terrampicante, manco chiarore sta nutta vegante, manco stucore che non ridi più. Ai passo e spasso senza truva viento, sotto a sta casa don uscin tu. Non son l'albero, non è posilla con una stumora te parla così, non è a caraccio, non è staria tenera, non è stucciolo in festa, non son ghi. Stanotte Napoli, che chiamo a te, sietate oi bella, tu dici Napoli che hai voglia a te. Stanotte, stanema, che cerca te.